Unità 1. Lessico. Traccia 5. Ma io ti conosco, ti ho già vista da qualche parte. Conosci per caso Jean? Sì, certo, il giornalista francese. Piacere, io mi chiamo Federica, e tu? Io sono Rosa, ciao. Probabilmente ci siamo incontrate da qualche parte con Jean. Che lavoro fai? La fotografa. Mi occupo anch'io di sport come Jean, perciò mi avrai vista con lui a qualche gara. Probabile. Sei qui da sola? No, sto aspettando il mio ragazzo che è andato a prendere qualcosa da mangiare. E tu cosa fai di bello? Sei collega di Jean? No, io studio. Ah, cosa fai? Sono al terzo anno di scienze dell'educazione e poi mi piacerebbe insegnare ai bambini. Ah, bel lavoro, ma che pazienza. Ah, ecco il mio ragazzo. Lei è Rosa. Piacere, Lucio. Rosa è un'amica di Jean, te lo ricordi quel giornalista di Parigi che abbiamo conosciuto?